attenzione, dici, c'è qualcuno? Hola, attenzione, dici. Beh. Ciao già, buonasera. Vabbè, la calcaia. Fino adesso lo sto accendendo, in questo momento. Non ho sentito nessuno, ho detto, ma adesso provo a fare chiamata, se c'è qualcuno. Saranno tutti in giro. A volte vanno anche in altri canali, fanno prove e cose, quindi magari un po' si sparpaglia la gente. Io sono sempre fisso qui. Cosa mi mette a girare i canali quando non ve mai nessuno? Ma infatti, io entro sempre sui 10, chiamo, se non risponde nessuno manco in giro. Io lo stesso. E buon Natale, così i bambini. In ascolto ero. Sempre là? Sì. Bisogna che me lo tenga il ricevitore bello, che vi faccia ascoltare bene. Perché a volte non c'è nessuno qua, così almeno mi ascolto Radio Mattutino. Infatti. Tanto adesso più che quello non si sente, no? Non si sente più nulla di quello che si ascoltava prima. Il tram, le condizioni meteorologiche marine. Ma quella non senti nulla mai, poca roba. Quello di giù devi ascoltare. Su non entra nessuno, manco nelle solite, di poca gente. Lo so, perché io ce l'ho sempre acceso, ogni tanto entra qualcuno, due passaggi e poi se ne vanno. Si danno l'appuntamento ad un'altra frequenza, di no. Infatti. Quello canale monitor se lo tre. Vabbè, a volte già si trattenevano prima, adesso non l'ho più sentito. Magari non coincidono anche gli orari, E poi stanno sempre attaccati al computer in digitale, a me mi biasi validare, cosa il computer. E la stessa cosa ti dico, allora non c'è più, non c'è più cosa della trasmissione se usi il computer. E infatti, questo programma che stanno usando adesso fa tutto da solo, tu te ne vai al bar e lui ti fa i collegamenti da solo. Ma di tu non c'è niente, Natalia. È come se tu mettessi un robot, è la stessa cosa. E infatti a me non mi piace. Ce l'ho ma non mi piace. E anche Tore, la buonanima, usava quel programma che faceva la chiamata da solo. Ma questo è peggio, questo proprio da solo funziona. Sì, le puoi fare tu le chiamate, ma questi ti collegano, lui risponde, ti fa il collegamento, mette al logo, du tu e du vat. Ma fa bronza. E allora, che gusto ci pigli così? Non si sente nulla, perché metti un cavo che ti elimina pure l'audio, figurati. No, bello è partecipare, Natale, partecipare alle cose. Oppure ognuno, ha i suoi gusti, ma secondo il mio punto di vista è così. Meglio partecipare, chiamare tu, rispondere, fare. La soddisfazione è quella di sentire, se no che soddisfazione è? È come se non ne avessi. Infatti, questi modi digitali a me non è che vanno giù. Insomma, a me mi piace parlare, se è per quello mi rimango qua, qualcuno entrerà ogni tanto, in inverno penso che dovrebbero rientrare la gente. Già rientrano, piano piano già rientrano tutti. Infatti, adesso più tardi si stanno trattenendo verso le 7:30, 8:00, la gente, qualcuno entra. Ma io a quell'ora mi guardo il televisore, se c'è qualche bel programma che mi piace, non sto alla radio, perché disturbo magari gli altri condomini, capito, mi dà fastidio. E voi che te dica? Questo entrano sul tardi, mi stanno entrando. Vabbè, ci stiamo trattenendo anche noi più tardi del solito, prima all'ultimo avrebbe nessuno, adesso fino alle 8:30, alle 9:00 ci tratteniamo. E infatti. già è una cosa fattibile. Eh sì, io ci vado, devo stare a stecchetto, che cazzo. Oggi mi ha fatto la pasta al forno, io devo andare all'ospedale domani. E me l'ha buttata là, se mangiano un pezzo, mangiano un pezzo, vabbè. Non ci mangiate un pezzo e me la vende a abitare un altro, ma un pezzo lì dove la giovane appena appena a gustare. Sì, lo so. Cazzo, la pasta al forno è buona, ma la sorte. E te lo so bene, la fonda è buona. Ma io non l'ho mai fatta, ma mi riprometto di farla. Tanto cosa vuoi? Adesso mi guarda come si fa la besciamella e la faccio. Guarda, su internet te lo dice, comunque ci vuole burro, latte e farina. Non ci vuole altro. E infatti, già mi pongo a farla, perché lì tanto mi c'ho le teli e qua vado un forno e mi salgo un agnone. Vi casi in trio, ve una deglia manna a manna, poi ne ho due d'acciaio, la faccio in quelle di acciaio, la passo al forno ed esce una bomba. Ah, la besciamella non per comprare la che fa, è buona quella della chef, quelle lì sono buone, siamo le besciamelle. Non c'è bisogno che la fai tu la tari, ti eviti molte cose, capito? Molti impicci. Mamma di tui noi si assai non è buona, come ti dava richiesti Adriano, che lui la fa. E se la fa lui dice. Ma io mamma la faceva la besciamella, però le quantità non le so, Attari, bisogna che controlli su internet, perché le quantità non me le ricordo, in quanto io uso quella già fatta, la verità. Non te lo diranno su internet le quantità e tutto quanto e come si fa. Basta guardarla, la vozzo, se la bongo in frigo e così al manco da voi mi vozzo l'urragù, che se sarebbe buono a farla la basta al forno, e problemi vi saranno. Io non ci vuole manco la laurea, no, io ci metto anche il prosciutto. Il prosciutto ci metteva, lo sai chi la faceva buona? La moglie di povero Marco, di mio cugino, durante la vasia buona, chissà la basta al forno, si buonia pure un prosciutto, è vero. È il prosciutto cotto, sì. Vabbè, anche Liliana la faceva bene, anche Elena la fa bene. Ma io non mi so come mai appintato a chi di gomme di travaglia a farla. E non mi sono mai messo. Ma il giorno che mi metto lo vedi a vedersi la bozza. Ho fatto cose più difficili e non faccio quella. Il segreto è il ragù, se sai fare il ragù che ci vuole. Il ragù bisogna saper fare. Con le carote, il sedano, tutto quanto ci vuole, dai. La carne, la macinata. E il ragù a me mi ci vuole, ma buono a vero però. Anzi, ci ho messo il sedano, le carote e mi ha detto a farlo normale, mia moglie, a chi dici che è più buono come ti lo fossi io, normalmente. Ci ho messo il sedano e le carote e dice che era troppo dolce. Ma è così che si fa, vabbè, questo era di gusti, dai. Sì, io ce lo metto per la pasta al forno, c'è stato un break già, fallo venire avanti. Avanti break, avanti, no, non ce l'era break. Sì, è vero, agente Gio ha fatto break, però se non vuole venire avanti, faccia come crede. Ok. Ma non ha senso, se uno fa break è perché vuole entrare, boh. E forse magari perché stavi qui, io non è che potevo passare sopra a te, no, che non mi sentivi. Quando hai smesso di parlare, ho detto mica c'è un break, fallo entrare. E non è voluto entrare, peggio Baedo, magari ha pensato che non lo volevamo far entrare o che non lo sentivamo, e avrà girato canale. Comunque se vuole entrare qualcuno non c'è problema, lasciamo lo spazio tra un passaggio e l'altro, e se vuole entrare qualcuno almeno così può entrare. Sì, infatti, quando c'è il bianco già lo sentiamo se vuole entrare qualcuno. Ahia, però di loro risolgo la terra, mamma mia. Speriamo che mi prendano domani, perché sennò guarda, divento scemo io. Lo so, prima te lo fanno e prima te ne liberi. Che poi devi fare la riabilitazione, tutti dicono, ma la giorni, mamma mia. e sono cose fastidiose, già. Quando uno non riesce a dormire che ha dolori fissi, almeno io non ce l'ho fisso, vedi? A me mi viene solo se la sforzo la gamba, che cammino allora sì, però non ce l'ho fisso io il dolore. Natale, io se la sposto di un millimetro nel letto vedo le stelle. Sì, me lo posso immaginare, quando vai tu lo rivisto e mara la situazione. Non ho più voglia di nulla, ragazzi, che faccio dal divano al letto, dal divano al letto, non ho più voglia di fare un cacchio. Sono dovuto uscire da prima a farmi la spesa perché non sapevo come fare, allora... Poi abbiamo scoperto che da Corte Santa Maria la portano a casa adesso, qualche volta la ordiniamo lì, ma costa 3 minuti di mille roba. È una farmacia, Gissu, è una farmacia la Gobet, ma dici che tu vieni sarà tutti i Gobet, a cantaggio compreso. Non sta andando bene, no. Non sta andando bene, a Corte Santa Maria la sarà due di negozi. Yes, bebe. Il troppo buono non la stringe, mi sa, ma aperto tutti, poteva accontentarsi di pochi, no? Vabbè, magari perché hanno aumentato la luce, tutte queste cose, e il materiale costa di più adesso e quindi la roba la fanno pagare di più, però la gente deve seguire per andare in manco e quindi giustamente se non lavora quello come fa a pagare gli operai e tutte le spese che ci sono. Bisogna mettersi anche nei panni degli altri, già. Ma non è quello, perché da prima che stava andando male, l'aveva data anche in gestione, eccetera, quindi è da prima che stava andando male. Già come è successo il casino al Cedi, che non è stata più scisa, tutti i negozi sono andati male. È vero, mi sa che quello era l'unico, perché pigliavano tutti da lì, capito? Il prezzo era concordato in tutti i posti. C'erano tanti soci, quindi la messa si pagava di meno, si poteva vendere a meno prezzo e si potevano fare più offerte, eccetera. E adesso sono un po' così, a tappabuchi. Certo che è un peccato quel CDC, era un peccato. Adesso c'era la Conad. Il Cedi. E allora c'era la Conad adesso. L'ho comprato loro. Infatti. E se gli so Conad fa zarane come in Siria nei vendici di Rasisa. E certo che è un macello. Quando succede nei tigosi. Chi è che vuole entrare? Avanti. Avanti, chi vuole entrare? Natali. Ehi, boh. Cosa vuoi che ti dica? E c'è gente che fischia, mette le portanti, gli dici di entrare e non entra. A me, guarda, quando sento così prendo e non gli rispondo più neanche. Avanti. Se scendo male. Hai un innesco. No, sempre innesco. Aspetta, cosa devo cantare l'antenna, allora te lo dico. Di Crisia è. Allora l'ha gentiso. Sì, anche io l'ho sentito, ma non ho capito cosa ha detto. No, mi stai facendo col fischio, Crisia. Crisia, non esci di radio, probabilmente c'è la batteria scarica. Nada da nada, avanti Natale mentre si controlla il microfono, Cristian. Ehi, ma stava dicendo che doveva cambiare l'antenna, mi sa, boh. E a bisogno non funziona in diretta. Non vuole l'antenna, gliela vendo io, ce l'ho nuova, l'ho comprata e non l'ho piazzata perché poi ho trovato l'altra. Ehi, ho capito, ce l'ho anche io l'antenna. Si lavora la logo, pure io, non c'è problema per quello, tanto io di quella non ne uso. Così almeno recupero la base magnetica, se no mi tocca comprare a mira. Infatti, vabbè, se poi non sai cosa fare, dalla a me quella lì che è più leggera della mia. se tu non hai dubbi. Ma sono tutti e due pesanti, Natale. Beh, è Turbo 2001, è quella lì. E la mia è la PLC 800. Cazzo, quella lì io l'ho messa da qui a Platamona, non mi hanno perso un attimo, nulla mi. Dice che c'erano punti che non prendeva. A me Gianfranco e Giovanni mi hanno sentito tutto il percorso, sia l'andata che la tornata, che me ne sono tornato dalla 131. Non mi hanno messo un attimo. E io lineare non ne ho, non c'ho nulla, c'ho solo la scatola di Cerini. Quando anche in FM abbiamo parlato, perché c'avevo AM/FM in quel baracchino piccolo che ho per la macchina. Ma come perdono? Solo che la mia antenna è pesante e mi fa staccare la base magnetica quando cammino, capito? Invece quella riflette di più e non fa forza. I break, ho sentito adesso. Avanti break, avanti! Ma cosa vuoi che ti dica? Gli dici entra e non entra, fa di break e non entra. Ah ma più se lo vedi non entra, se non fatti nulla. Tutta la sera prendendo in giro, break e dopo non entra. Sembra che ti vogliano prendere in giro, ma rimangono loro presi in giro, è quello il bello. Ma per carità. Dico cavolo, entra, no, fermo che entra. Cristian ci sei, attenzione Cristian ci sei. Cristian, con Cristian c'è qualche problema, non sta piacendo l'antenna, quella che doveva piacere a casa sua. Ah boh, non lo so, e cosa vuoi dire, sì non avremmo compreso, visto che era di Zendi. C'aveva quell'innesco, un minuto, è uscito appena appena chiaro, l'ho sentito che forse doveva piazzare l'antenna, ma non ho capito bene il resto, che ne so. Ma è anche il modo che ha lui di parlare, parla molto in fretta, non si capisce cosa dice. Anche quello c'è. Ma è uscito appena appena chiaro e ho sentito roba di antenna, però non ha giù compreso di tu su che ha detto, quindi non so se la doveva cambiare o se la doveva controllare. Cazzo. Cristian, ci sei? Ci sono. Ehi, ma dove sei? Non stai uscendo di radio? Cristian, controlla la batteria del microfono, non esci di radio. No, non sei uscito. Anche poco fa ha fatto un passaggio chiaro e da lui no. O va che filo ci accade nel microfono. Ma può essere più la batteria, perché ho fatto così, non mi sentiva, poi sono sparito di modulazione, con il microfono nuovo, infatti Marco ha toccato, è nuovo. Sta generando problemi e invece qui alla batteria. E infatti, ma io quando mi è arrivato non avevo batterie nuove, quindi ne ho messo una che l'avevo già usata col Starler, l'ho portata e l'ho messa lì, quindi deve essere a quasi scadenza con la batteria, quasi stava finendo. E infatti, e ti faceva quell'effetto lì. Quello lì è bello, il microfono che ho messo nel 2009. Il suo è un macello, è troppo bisante il suo microfono. Io ho questo qui da tavolo perché quello suo non lo vuoi idratare, è troppo bisante. C'è un affare di ferro che non sono riuscito a togliere, ma che deve essere incollato. Rischiavo di rompere il microfono. No, io l'ho messo da parte, Natali, l'ho messo da parte perché mi dicevano che mi faceva uscire male il radio, che era cupo, e allora per la mia voce non andava bene, l'ho messo da parte e ho comprato quello che si è comprato Marco Condor, che ho visto che usciva bene, l'ho preso anch'io. Sì, te l'ho fatto arrivare io quel microfono. Sì, è vero, ma stavo dimenticando. In effetti va bene, dai, va molto bene per il microfono. Sì, infatti. Il 2009 ancora, sono un po' di giorni che non lo uso, adesso mi torno, mi assenterò da casa, al giorno gli apparecchi sarà quando torno, poi faccio avvicinare il mobiletto al letto. Sì, infatti. signor, io è un peccato questo 3009 che si l'avevo buttato a prima, si l'avrebbe chi la cosa, l'omologazione, capito? Perché non ha né canali né niente. 4 watt e boom. È il mio uguale, l'altra lì, però la banda laterale ce l'ha. E anche il mio c'ha la banda laterale, ma c'ha solo 40 canali. Nella frequenza che devo andare io non ci può andare, perché non ci va, è bloccato, capito? C'ha un affare di computer, tu lo sposti e c'hai tutti i canali. Anche se non hai la potenza, ma almeno lì puoi andare a ascoltare, magari se c'è propagazione ti rispondono pure con 4 watt. Anche il mio così io non l'ho mai toccato, il mio è originale come l'ho comprato. E così ho lasciato il mio per avere l'omologato qua. Quello della macchina, per esempio, già è omologato, solo che non è marcato c'è, se te lo trovano te lo sequestrano. Cristian, non stai uscendo. Prova a cambiare il microfono, Cristian. Bisogna avere il segnale a disposizione, perché in macchina, lui lo sa che è modulata la macchina. Molte volte in macchina non hai modo di poter riparare a queste cose. Ma adesso c'è anche l'antenna, non lo so se l'ha piazzata. C'è l'antenna da piazzare. Ah, da piazzare in casa, si dice. E allora? C'è un'antenna che l'hanno regalata e ha detto che la doveva piazzare, però non l'ha mai piazzata, ancora non si è deciso. E evidentemente non ha avuto l'occasione. Che gruppo di lui a farlo, Menattari? Sì, già avevo a farlo, perché io quando ho piazzato la mia già me ne sono accorto cosa tutto abbiamo dovuto fare. E si vede come se ne farà da Ghisantenna, mamma mia, come era. E vabbè, il tuo caso è patologico, ma non è in tutti i casi così. Lui ce l'ha in campagna, quindi con una scaletta ci arriva sul tetto. Ehi, già lo so. Cavolo. Pururubiele vera, Vesiga. Il cavo era, deve essere che era entrata l'acqua, tutto nero la calza era. Dimmi tu. Ho dovuto cambiare tutto il cavo. Meno male già ce l'avevo. Vabbè. No, io quello che ho detto, dopo 12 anni il cavo era secco, sì, era poco grosso, però dentro era normale, non era nero. Ma il mio. Ma il mio era entrata acqua, il PL me ne è uscito la boccola che ha vita, addirittura si è rotto proprio. Tu lui vedi come intira. Non l'ho conservato, se no te l'avrei fatto vedere. Io dico di me a capadarisa se l'avevi visto come intira. Perché io a Natale li metto tutto vulcanizzato sopra il PL che attacchi sull'antenna di su e poi gli metto tutto il nastro adesivo di modo che lo stringe bene e poi con gli stop nastro adesivo esce, anche se è quello buono e dura un bel, però poi esce, rimane vulcanizzante duro, quindi non può mai entrare l'acqua perché glielo metto bene vulcanizzante tutto attorno. Sì, ma da me entrava acqua a nastro dalla bobina. Ed è curato in chivi, buru, figurati. Se ti sto dicendo che la calza era nera, vuol dire che è entrata acqua. È benissimo, ma sicuro. Una volta a me me l'aveva fatto, è entrata acqua e addirittura è arrivata al piede di giù. Figurati. Nel piede di giù invece era normale. Un pezzo solo me ne ha fatto nero, però purtroppo l'ho dovuto buttare, già ce l'avevo di quello messo ai paloni, buono, e gliel'ho messo il cavo nuovo. È tutto vulcanizzato, però mi dovesse entrare da leva. Il PL verde è diventato dall'acqua. Cappagappo. viene misurato in base a Magendi, adesso si sta lamentando così. E chissà cosa ha inteso, magari Aienti, Bassendi, oppure qualche altro cane, e allora si è messo a abbaiare per quello. Ma ti vuole associare a Guccani, mi gira a me tranquillo, di colpo ci sta arrato. Vuol dire magari è passato qui Dugani l'offio. vabbè. Cava. Io ci vedevo pulire anche le gabbie, perché domani devo uscire presto, alle 7:30 deve essere in ospedale. Infatti. Ma speriamo che ti ricoverino, ti dicano che ti ricoverano subito, così al manco te lo togli da mezzo alle scatole questa roba. Non puoi fare un rudurore sempre in visto, che... Ah, mamma mia, se ci penso. Ma secondo me non l'hanno letto, perché la dottoressa, l'ortopedico che mi ha visitato la prima volta, ha messo con urgenza, e questa parola dovrebbe valere qualcosa o no? Penso di sì, se l'ortopedico lo sa che c'ha i dolori, è logico che è urgente, vuol dire che è urgente, chi non può essere uno così. L'ortopedico ha messo urgente per quello. E allora, perché hai detto che non stavo dormendo la notte, che la forza di Ucchi, cavolo, che non potevo stare così, ne ho consumato già 2 o 3 scatole di Ucchi. Infatti, non ti puoi ricorusare i dolori che provoca già chissà cosa. Magari non l'ha provato, ma rusà da ripazienti. Ma dopo anche Ucchi non mi sta facendo nulla, ieri notte mi sono alzato alle 3 di mattina, che avevo dolori fortissimi, da gridare, mi notavo, dolori da gridare. Mi sono alzato e ho preso Lucchi, ho preso il gastroprotettore, prima poi ho preso Lucchi, mi sono mangiato una mela per non dire che non c'avevo nulla nello stomaco. Ho preso Lucchi e sono stato tutta la notte a dormire lo stesso. Sai cosa ho dovuto fare? Mettermi nella poltrona in sala, che c'è la poltrona che si abbassa dietro, no? Mi sono messo in questa posizione e mi sono addormentato così, mi sono svegliato di domani mattina. Meno male che sei crollato, se non eri stato tutta la notte a dolori. Cavolo, e me lo posso immaginare già, mamma mia. Poi avanti, Socchi, non ti piace più nulla, ma cosa hai? È un pagliativo eddo. Più il fisico si sta abituando a questo, che non ti fa più nulla. E ne così, Natalie, ti dico, guarda, ne così, rosso. Cazzo, Gesù Cristo mio. Praticamente lì non arriva più sangue, si è formato sangue spesso, liquido all'interno, c'ho anche liquido, capito? Già lo credo, ma poi c'è urgente, Guido. Cazzo, mamma mia, è brutto, è già brutto. Speriamo il più presto possibile che ti operino, così almeno che me lo togli da mezzo alle scatole, perché non è possibile stare così. È una cosa troppo brutta. Lucchi adesso si è assuefatto il fisico, no? E non agisce più. No, non prende, non fa più effetto, capito? Non fa più effetto, prova anche a cambiare coso antidolorifico, mi hanno dato uno ortopedico per provare quello, e peggio di no, proprio quello lì non fa nulla, non fa niente. Piano piano già risolverò, però domani quando vado glielo dico, se mi dice che non ci sono più, si dico così, però non si fa, perché io c'ho il necrosi, ma l'avete visto che necrosi, che c'ho liquido e tutto quanto, perché magari il dottore è sfuggito, E tu tu glielo dici, cazzo, io non sto dormendo la notte, non posso stare dai dolori, Lucchi non mi fa più nulla, glielo devi dire. E poi ha messo urgente l'ortopedico, perché lo sa in che condizioni sono io, che né così rosso, e in più c'ho anche il liquido. Mi devono operare il più presto possibile. È un casino, Natali. Sono loro che comandano, questi sono quelli che vengono da fuori, quelli che operano con robot, e quello che mi interessava era quello. Gli altri sono bravi lo stesso, ma non avrei voluto questi io. Ehi, Arusogu, Arusogu, ma due genitori di agno, di Rusani, cazzo, chi sei a Durori già? ma l'ha scritto anche la dottoressa, ha scritto tutto, ha scritto anche come mi sono presentato con una stampella, mi ha corretto, mi ha detto di prenderne due, che una era sbagliata, poi era la parte sbagliata, perché dice che non si prende mai la stampella dalla parte che ti fa male, ma devi prenderla dall'altra. Figurati, certo. Oh signore benedetto. Ma e qui è un cazzo che vi sia a rungo e che ti pongano in mezzo. Tu di virus non puoi chià, ti sei a zicchirli la notte. Lamenta di amuchi. E adesso vediamo un po' cosa dice. Secondo cosa mi dice, voglio vedere a Marco a cosa, perché gli lascio qualche cosa. Qualche cosa per pagare l'ambulanza quando vengono a prendermi, tutto quanto, e la roba per gli animali e tutto. Ma la mente, di tanto non stai dicendo una bugia, stai dicendo la verità, che sei a dolori. Cazzo diavolo, quando mai? Ma io pensavo di essere il primo a essere preso, perché mi ha detto, come arrivano i primi che arrivano, gli fanno l'operazione, me l'ha detto la dottoressa. I primi che arrivano gliela fanno, probabilmente è ovvero che è incuzzato, non è che va da me, hanno buso l'asso, non lo so come sia la situazione natalizia, perché lì lo sai come no. Lui primi è vero, ti chiamano subito, ti chiamano in chivi, non è come te ripidare, no. In chi mi diceva nei subito, come ti vedi, l'urugu, che c'è la sala operatori e l'equipe pronta, ti chiamano subito. Non per qualche favoritismo già ci sarà, non lo metto in dubbio, però no, come ti vedi, l'urugu, subito ti chiamano in chi mi, no, c'è una pigli tempo. Infatti mi sembra strano che non ti dicano di ricoverarti. Ma infatti è sembrato strano anche a me, va bene, no, non va bene. Io avrei preferito che avesse ricoverato subito, signor, ma non siamo noi che decidiamo, noi ci hanno dato solo l'incarico di avvisare e basta. E infatti, sono i dottori che comandano, che si opereggiano. E vabbè, vediamo adesso, dai. Speriamo bene. E a chi si vende nei da continenti non è sempre chi bisò, vuol dire che vanno impegni in altri luoghi, dici, c'è chi viene da Vura. Capito? Questi vendono, gli danno tanta operazione, per dire 1500 euro operazione, e poi se ne ripartono, capito? Vengono il mese prossimo, sono così, lavorano in altri ospedali anche, loro lavorano così, tutti gli ospedali li chiamano, vanno, fanno l'operazione e poi, capito, un'equipe che si sposta. Perché loro lavorano come liberi professionisti, mi, capito? Li chiamano, operegiano, incassano e si andano. E così è. Chissà quanti ospedali fanno, è per quello. Vabbè, certo. Ma adesso vediamo. Comunque dice che c'è anche una sala riabilitativa non indifferente, c'erano tutto quanto, tutti gli attrezzi, vedrà che noi non siamo come all'ospedale civile che fanno. Io gli ho detto, io vabbè, me la facevano un quarto d'ora la fisioterapia, no, qua è diverso, qua c'è tutto, qua fa tutto quanto, c'è bicicletta, c'è tutto quanto. Meglio così già, almeno ti fanno le cose come devono essere fatte, è proprio vera, il policlinico è tutta una sagosa, e manca confronto con l'ospedale, assolutamente. Speriamo che questa equipe sia libera quando vai tu domani e ti dicono venga stasera che alle 8 deve essere in sala operatore, perché non è che ne fanno uno, no. C'è azienda tutta la Dio per endi clienti. Già lo so che è così. Ma non ti possono chiamare all'ultimo momento, Natale, perché devi avere anche il momento, ti devi preparare la roba quando arrivi all'ospedale, metterti la roba vicino al comodino, perché poi non ti puoi più muovere, mi agatti davanti la roba. Sì, infatti. E isso. Oh, l'accusa che non facciano entrare nessuno con questa storia di Covid, il premio che si è giambato, a che a me non puoi entrare manco me moglieri. Assolutamente. Cazzo, da solo è brutto a me. Io già lo so. né all'ospedale né al policlinico l'hanno fatta salire in reparto, assolutamente. Quando mi arrivava la roba, c'era infermiera Raianna, dicia di dargli la roba, mia moglie mi arrivavano, hai capito? Non facevano entrare nessuno in reparto. Ma io come faccio a non far entrare nessuno? Devo portare tutta la roba su e c'ho due stampelle, come faccio a prendere la roba? Qualcuno deve venire a portarmela. C'ho la sacca, c'ho una borsa, c'ho altra roba, l'acqua mi sono portato, e dopo magari lo faccio entrare un casino. Fin Sarayana lo vado in arriviga con chi ti accompagna. Da voi esce l'infermiera, Bria, che sarà da Raianna di Rurepata, hai capito? Esce l'infermiera e ti aiutano gli infermieri lì a portare la roba. Se ti vedi in quei ciampelli, Gesù Bambino ti la butta alla gammara. Ma ho compreso. Fino alla porta del reparto faranno salire, penso. Quindi qualcuno che ti accompagna con la roba, lo dice a Marco, che ti porta la roba lì a Raianna Ziglocca, da Buglia bisogna infermieri, in chi ti rabbigliani. Pure se non fai entrare il reparto, capito? Ma buon anno Natalia, ti saluto che vado a farmi le gabbie, se no domani mattina mi devo alzare presto, è un casino. Li lascio. Eh? No, praticamente mi pulisco le gabbie, così gli lascio solo la roba da mangiare e da mettere perché è limpida e quindi se la metto domani mattina, dai, poi tutto il resto lo faccio. Babbo, là, ci sentiamo Natali, stavi bene, buona serata e tante cose belle. Ciao, ti faccio sapere, ciao. Ciao, io non ho il numero di Paola, se no l'avrei telefonata e ti avrebbe aiutato lei. Tu non è che la puoi rintracciare per caso, no? Per il sicuro. Sì, Liliana già ce l'ha il numero, sono amiche. Liliana già ce l'ha il numero, anche se adesso non mi pare che non si stiano più frequentando, ma sono amiche, sono rimaste amiche. E allora fatelo dare. La chiama e lui, sono Gianni, il marito di tale persona, così, così e così. Se mi puoi dare, perché ho due stampelle. E già è gentile Paola, capito? Scusa, dove? In ortopedia? No, in chirurgia lì lavora, ma già ti dà una mano, non c'è problema. Ma lì sono tutti gentili, guarda Natalia, ti dico la verità, io ho visto questa infermiera, mi si è avvicinata e mi ha detto, dove devi andare, se devo ricoverare, ho detto no, devo fare il tuo ricovero. Aspetti che ci penso io, ha preso, ha chiamato, ha fatto, e poi quando ho finito è venuta, mi ha accompagnato nelle scale, è scesa con me, mi ha preso a braccetto, è stata troppo brava, grazie, meno male che ogni tanto si trova qualcuna che non ha la grazia dell'ospedale. Vado là, c'è. Ciao già. Fa come ti ho detto io, così se a Marco non lo fanno entrare, lui entra, per forza, capito? Ehi, tanto domani devo andare solo per fare il gruppo sanguigno e tampone. E rintracciala, glielo dici, già è una persona gentile e quindi ti danno una mano, non c'è problema. Poi se ti vengono i campelli, gatto, più di chi sono di voi? Vabbè, ci sentiamo, vai a fare quello che devi fare, già là, ci sentiamo alle prossime. Ehi, ciao Natali, ci sentiamo.